Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Allora, il gioco di oggi è quello di riuscire a non dire né Steve Jobs, né Apple, né iPad, né nuovo iPhone, né iPhone 4, né iPhone 4S. Vediamo quanto ci riusciamo. Io ho già sbagliato, chiaramente. Vediamo dello Jacopo se ci riesce. Non credo, oggi sarà un po' difficile. Ma guarda, noi, per quanto ci sforziamo sarà difficile. Ma noi ce la faremo, ci proveremo, perché oggi il tema è quello delle startup. Io vengo tra l'altro dal Politecnico di Milano, dove l'acceleratore di imprese hanno premiato Idea to Product. Lo sapevi? Cioè le aziende che passano dall'idea al prodotto. Comunque ne parleremo nelle prossime settimane, porteremo qui i vincitori di questa competizione. Ma oggi il tema è la terra, gli spin-off della terra, Università di Torino, Università di Milano. Prima le news. Arriva la quarta generazione di iPhone. Steve Jobs, amministratore delegato della Apple, ha presentato uno smartphone più sottile del 24%, ma l'evoluzione dell'hardware è profonda. Lo schermo ha una risoluzione di 326 pixel per pollice, superiore al limite dell'occhio umano. L'iPhone ha un chip sviluppato da Apple, un giroscopio e una foto-videocamera fino a 5 milioni di pixel. Permette chat visuali attraverso il sistema Wi-Fi e il multitasking. Sarà in vetrina il 24 giugno negli Stati Uniti e da luglio in Europa. Microsoft punta sulle mappe tridimensionali. Il colosso di Redmond ha in cantiere un progetto per mostrare l'interno e l'esterno dei ristoranti nelle cartine online. Gli utenti potranno visitare le sale e gli edifici da internet. È un programma sviluppato in collaborazione con un'azienda di Boston, Everyscape. Nella giornata mondiale degli oceani, il WWF ricorda che sono quattro i rischi maggiori per i mari: la distruzione di coralli freddi, le navi carrette, la pesca eccessiva e il petrolio. Secondo l'organizzazione ambientalista, saranno necessari 50 anni per ripristinare l'equilibrio naturale nel Golfo del Messico dopo la perdita di greggio della piattaforma di British Petroleum. Comunque no, io solo una cosa va detta, che sembra che abbiano inventato la videochiamata, cioè che se li sente Novari di tre, cioè due anni dopo i quintali di spot sulla... Comunque avevano detto che non si parlava di Apple, ma parliamo... Almeno però era necessario tornarci almeno un attimo. La news l'ha scritta dello Jacopo, per cui lui è stato molto tecnico, devo dire, merito, non c'è stato un aggettivo, perché dello Jacopo non sembra un aggettivo, non lo mette mai, tecnico, 15% in meno lo schermo, 15% in più, pixel in più, in meno, bravissimo. Ma siamo tutti coinvolti poi in questo grande cambiamento. Ecco, basta, parliamone più. Andrea Biason, buongiorno. Presidente di SIR, lei non gli chiederemo nulla sulla Apple, ma invece le chiederemo molto su SIR, spin-off del Politecnico di Torino. Abbiamo una scheda, poi ci racconta tutto. Geomatica è un ibrido tra geografia e informatica, dove lo sviluppo di software incontra la complessità del territorio. Ha raccolto la sfida SIR, uno spin-off del Politecnico di Torino. A fondarla sono stati 5 ricercatori universitari. Hanno utilizzato tecnologie sperimentate in laboratorio, ma perfezionate nel tempo. SIR produce immagini ad alta definizione e modelli tridimensionali a colori. Si rivolge soprattutto a sovrintendenze per i beni artistici, amministrazioni regionali, operatori privati e ha all'attivo progetti internazionali in Africa e in Medio Oriente. Sì, allora, uno dei progetti che voi avete in questo momento in corso è ad Algeri, è stato ad Algeri, giusto? Sì, esattamente, ad Algeri. Di che cosa si tratta? È un progetto di rilievo del tunnel della metropolitana di Algeri, in funzione degli interventi di impermeabilizzazione e di consolidamento che sono stati fatti sul tunnel da una società nostra committente. E voi avete fatto una sorta di fotografia, una ricostruzione tridimensionale, quindi? Sì, un rilievo tridimensionale per punti, con una strumentazione che si chiama laser scanner, integrato con delle immagini fotografiche ad alta risoluzione, tipo fotogrammetrico. Ecco, Biasion, proviamo a spiegare agli ascoltatori, a chi ci sta seguendo, come funziona. Perché un po', insomma, la scommessa di questa trasmissione è anche quella di provare a spiegare cose complicate che però valgono la pena di crearci intorno un'azienda. Certo, certo. In parole povere è una realtà, un'infrastruttura complessa come quella di un tunnel di metropolitana, viene ricostruita, viene modellata per punti, quindi in una scala, in un apposito rapporto di scala, uno si trova sul proprio PC, sul proprio lavoratore, un modello ridotto di un'infrastruttura complessa come può essere una galleria di metropolitana. Se dovessi immaginarlo, è simile a un videogioco, quindi ho di fronte gli edifici in forma tridimensionale, come in un videogioco, solo che mentre nel videogioco sono edifici immaginari, in questo caso invece sono edifici reali con dimensioni assolutamente reali, e in scala esattamente ovviamente. Questo, noi non si tratta di realtà virtuale, come può essere quella dei videogiochi, ma è la vera realtà riprodotta con un fattore di scala, quindi è una base, un supporto di tipo tecnico, quindi funzionale a progettisti di tipo tecnico, ecco. Che però ha anche una sua valenza divulgativa data la natura tridimensionale del dato, che comunque è un bel dato anche da far vedere, insomma. Ecco, prima che De Lo Iaco fa un'altra ma allegoria, senti anche, no, ma senti anche però la passione per il dato suo, no? È un bel dato, certo. Perché voi è un dato questo, cioè la fotografia diventa un'informazione. Sì, per noi sono punti, sono punti piuttosto che pixel, ma per un progettista, per chi utilizza i nostri dati, sono dei supporti che danno un notevole vantaggio in fase di progettazione. Ecco, chi sono gli utilizzatori di queste fotografie? Cioè a chi vi rivolgete? Io vengo da un pitch, come si suol dire, nel senso un incontro, una competizione dove chi ha le idee innovative ha 5 minuti per spiegarla. Noi non abbiamo 5 minuti per spiegarla, ma uno degli elementi è quello di capire chi è l'acquirente di queste foto, di questi servizi. In questo caso era una società che si occupava di impermeabilizzazione, quindi doveva rendicontare nei confronti del proprio committente proprio la quantità di interventi che faceva nella galleria, e quindi il nostro supporto gli serviva proprio per misurare metri lineari piuttosto che metri quadrati di intervento fatto sulla galleria. In perché, altri è più casi facile essere... misurar- scusi, perché è più facile misurarli sull'immagine piuttosto che nella realtà? Eh sì, perché in primo luogo lo faccio stando in ufficio e non dovendo andare sottoterra in una galleria con tutte le difficoltà logistiche del caso, e poi lo faccio non a contatto, cioè non devo prendere una scala e arrampicarmi su un muro piuttosto che una piattaforma elevatrice, ma me ne sto comodamente seduto al mio computer e utilizzo i dati che noi produciamo. Quindi si getta via il metro e si prende un po' il computer per prendere le misure? Sì, questo non dobbiamo dirlo troppo forte perché grazie Biasio, mai contento. Grazie Biasio. Ah, quanti siete? Altra cosa, siamo che 5 soci. 5 soci, cioè 5 universitari o 5? Siamo 5 ex dottorandi, cioè dottorati del Politecnico di Torino. Di formazione siamo 2 ingegneri per l'ambiente del territorio, un ingegnere civile, un ingegnere informatico e un archeologo. Abbiamo anche un archeologo. Che è quello trattato male, immagino, che sarà quello messo sotto. No, è l'amministratore delegato. Ah, però! Ecco, mi sembrava strano. Addirittura il capo, per cui è... Sì. Sì, per una volta l'umanista comanda sullo scientifico. Nelle file. È un caso raro. Grazie, noi passiamo da Torino a Milano, anzi all'Università di Milano. Stiamo con Antonio Sparacino, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, forse abbiamo il tempo per mandare la scheda, Sinossi. Agricoltura, cogenerazione, fonti rinnovabili. ESAE è uno spin-off dell'Università degli Studi di Milano. Ha sviluppato tecnologie per valorizzare le risorse energetiche e biologiche dalla terra. È in grado di riutilizzare il caldo e il freddo attraverso pompe di calore collegate a termopozzi. Punta sulla fertilizzazione biologica e sul risparmio energetico. L'obiettivo è di apprendere dalla natura e di eliminare l'idea di rifiuto. Lo scarto di un processo diventa materia prima per un'altra attività. ESAE è stata fondata 2 anni fa, ma conta su 10 anni di ricerche scientifiche, puntando sul trasferimento tecnologico dai laboratori al mondo dell'impresa. Nova Lab 24. Allora, parlavamo di energie rinnovabili. E un'idea che può essere interessante capire è che cos'è una pompa di calore, perché non se ne parla molto, però è un tipo di tecnologia. Così a freddo, che cos'è una pompa di calore? Sparacino, aiutiamolo. Pronto? Sì, mi sente? Sì. Allora, la prima domanda è centrale perché riguarda il vostro core business. Che cos'è una pompa di calore? Allora, specifico una cosa, per quanto riguarda le pompe di calore sono delle apparecchiature che hanno il compito di spostare la temperatura da un corpo all'altro. Ora, parlare di pompe di calore non è di mia competenza perché io sono un utilizzatore del sistema. Vabbè, quindi non la interroghiamo, però insomma quello che volevamo capire insomma è come, qual è il core business di questa startup? Il nostro in pratica utilizza il calore ambientale, si cerca di utilizzare il calore ambientale, calore che proviene dal sole, e concentrandolo, utilizzando le pompe di calore, viene concentrato questo calore, viene spostato, può essere accumulato nei termopozzi, in quello che noi abbiamo definito e che abbiamo brevettato come termopozzo, e successivamente viene utilizzato nel momento in cui se ne ha di bisogno. Ecco, allora, la pompa di calore comunque è una tecnologia usata soprattutto, ci sono delle grandi, è la classica tecnologia su cui si dice ci sono delle grandi potenzialità inutilizzate. Perché? Tutti conoscono direttamente o indirettamente le pompe di calore, in quanto tutti abbiamo un frigo in casa, almeno uno. E il frigo si basa sull'attività della pompa di calore. Ecco, ma perché facciamo fatica a utilizzarlo come fonte alternativa, come fonte aggiuntiva, cioè perché sono così poco diffuse? Ma le pompe di calore sono molto diffuse, e l'utilizzazione per la gestione termica che non viene fatta. In questo senso volevo dire. In questo senso, perché praticamente il calore viene spostato da un corpo all'altro, da una parte all'altra, ma non sempre si ha una utilizzazione immediata. Di conseguenza è necessario poter avere una batteria in cui poter conservare questo calore per poterlo utilizzare nel momento in cui serve. Anche perché ci sono anche tante piccole e medie imprese che comunque sviluppano questo tipo di tecnologia. Come ricorda lei, è un tipo di applicazione che è innovativo in questo caso. Voi poi avete sviluppato quindi un sistema attorno, cioè si tratta quindi di recuperare il calore in un caso, si tratta di recuperare quindi il calore per esempio durante i momenti in cui un impianto che produce energia genera calore, e poi di riutilizzare quel calore in un'altra fase della giornata. Esatto. Cioè il riciclo del calore, insomma. Esatto, però attenzione, io parlerei non solo di calore in senso lato, cioè gestione termica, caldo e freddo, perché noi possiamo utilizzare il caldo o il freddo, perché col nostro impianto è sufficiente invertire il flusso, la circolazione, per poter spostare il calore da un posto all'altro o viceversa. Quindi se io ho bisogno di freddo, rimuoverò il calore dall'ambiente in cui vivo e vado a portarlo nel serbatoio di accumulo. Se invece ho bisogno di calore, lo sposto dal serbatoio di accumulo all'ambiente in cui vivo. Perfetto, Sparacino, noi la ringraziamo, spero che sia stato chiaro un po' il modello di business dell'azienda. Vorrei andare però in Emilia Romagna, perché dovrebbe esserci in collegamento Tommaso Calzolari. Buongiorno. Buongiorno. Quanti anni ha? 18 anni, perché lei è appartiene a uno studente del liceo scientifico Alessandro Tassoni, se non sbaglio. Esatto. E perché la stiamo intervistando? Perché siete stati riconosciuti vincitori. Sì, la nostra scuola, il liceo scientifico Tassoni, andrà in rappresentanza dell'Italia in una competizione organizzata dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. E E ma... niente, noi rappresenteremo appunto l'intera Italia. Ma perché l'ESA vi ha scelto? Parliamoci. L'ESA ci ha scelto perché abbiamo proposto un esperimento molto interessante. La nostra sonda interamente autocostruita da noi misurerà, oltre che temperatura e pressione che costituiscono l'esperimento base di questa competizione, anche l'accelerazione e il campo magnetico. Tramite degli accelerometri, tre accelerometri riferiti ai tre assi. Soltanto? Grazie all'accelerazione noi riusciremo a determinare il momento di rilascio della nostra sonda da parte del razzo, e tramite operazioni di integrazione riusciremo a determinare la velocità istantanea e l'altezza che la nostra sonda raggiungerà al momento del rilascio. Tommaso, fammi felice, dimmi che all'università vuoi fare lettere. Sì, lettere. O greco antico. No, è che no, filosofia è bellissimo. Cosa vuoi fare? Non dimmi ingegnere, no. Purtroppo sì. Ecco, tutti così, cioè li abbiamo tutti noi. No, comunque, complimenti. Quanto ci avete messo a fare questo, a realizzare, a pensare, a congegnare, a realizzare concretamente questo progetto? Abbiamo messo circa 4 mesi, ma ci siamo anche divertiti alla fine. Anche perché la scuola è di... Voi siete? È di Modena. Modena, proprio Modena. Sì, quindi invece Modena, di assemblare Modena motori, avete pensato a fare una sonda? Era un riferimento a Maranello, però dello Iaco va interpretato dello Iaco. No, ma la nostra sonda raggiungerà una velocità addirittura superiore a quella delle Ferrari. Ti è, hai capito? 544 km orari. Però. Sì, sì. Ma comunque... adesso quello che succederà poi nella competizione più grande, cosa succederà una volta selezionati dall'ESA? Cioè siete selezionati e finisce lì o succedono altre cose? No, ci sarà la... C'è qualcuno che suggerisce, lo sentiamo. In agosto andremo in Norvegia. Ah, ok. Ci sarà la gara insieme ad altri istituti europei come... Ma tutti a sparare le proprie sonde? Sì, ognuno ha fatto la propria sonda. Perfetto. Allora, che la tua sonda voli più in alto di... Anzi, che la vostra sonda voli più in alto di tutte. Che la sonda sia con te. Che la sonda sia con te. Grazie. Grazie Calzolari, grazie a tutti. Noi domani alle 16.30, Nova Lab 24. Nova Lab 24. Nova Lab 24.